4 mattino di Alessandro Milan. Quando ti chiami Milan non puoi adattarti a normalità, non puoi volare basso. Tu che sei innocente, tu che non hai fatto niente, tu che ti lamenti perché ti hanno imbrogliato, allora adesso senti, tu andrai in prigione, in prigione, in prigione, proprio tu in prigione. Eccolo, eccolo, è uscito. Una di noi, è una di noi. Seguitato, offeso, amareggiato. Se questo era lì per rubare ed è morto, non mi spiace. Sono cattivo? Basta. Cosa fa? Le chiede scusa, come ti chiami? Fammi vedere se sei armato. Guardi, o sei preso una sensazione di paura, di difendere i tuoi cari, di difendere il tuo patrimonio. Si spara ha scavato e ha fatto e si chiamano le forze dell'ordine. Ora, e io avrei sparato uguale. Vado in pubblicità. Prima si spara in atto. Vado in pubblicità. Vado in pubblicità. Vado in pubblicità. Proprio tu in prigione. E che ti serva la lezione? Se me lo trovo in camera, ragazzi, cosa devo stare a valutare? Scusi, lei, signor rapinatore, mi può cortesemente dire se la pistola è vera, se la pistola è finta, se il suo coltello è affilato, è lungo e corto? Oh, ragazzi. Esperti di legittima difesa, non legittima difesa. Cosa ha detto la Santanchè all'onorevole Librandi, che gli diceva si spara in alto e poi si chiamano le forze dell'ordine? Vabbè, adesso c'è uno, adesso non lo so com'è andata, ma uno c'ha un ladro in casa, spara in alto e chiama le forze dell'ordine. Ma sparati in testa, ecco. Quando interviene la politica da talk show, poi finisce tutto così, in vacca, in vacca. Sì, anche tu in prigione, in prigione, in prigione. Il fatto però è, tra l'altro, uno degli ultimi in ordine di tempo. Un pensionato, Francesco Sicignano di Vaprio d'Adda, originario di Terracina, ma Vaprio d'Adda, in provincia di Milano, in una villetta, ha subito vari furti, pare fosse la terza volta che si intrufolavano da quelle parti. Per la verità i carabinieri dicono non ci sono denunce, ce n'è forse una. Ha sparato e ucciso un ladro che era entrato per arraffare robe, immagino. In prigione, in prigione, sei in prigione, in prigione, e che mi serve la lezione. E allora ecco i talk che si dividono, il paese che si divide, ha fatto bene, ha fatto male, l'avrei fatto anch'io, sparati in testa. E a lei. Che si avvia verso il mare, li dovete bloccare, fermare, catturare, sì, per mandarli in prigione. Immagino che anche voi abbiate un'opinione compiuta. 349-238-6666 è il numero per i vostri messaggi. Anche se, ragazzi, la notizia del giorno non è questa. La notizia del giorno oggi la dà Il Giorno, per l'appunto. È uno scoop incredibile. Se confermato, il titolo è questo di prima pagina: Papa Francesco è malato. Si parla di un tumore curabile al cervello, una piccola macchia scura trovata nel cervello del Papa. Questo almeno Il Giorno mette in prima pagina, con giustamente la dicitura esclusivo, seguito da un professore giapponese, il professor Fukushima, che dice non è comunque da operare ed è curabile. Beh, insomma, in bocca al lupo al Papa, ovviamente. Cari ascoltatori, siamo qui con Lorenzo Nespoli in redazione, siamo qui con Peter Bescapè in regia. Con la nuova stagione Radio 24 cambia completamente e diventa Paola 24. Eccoci qua. Ora è solo di Paola Saluzzi. Alle 6.33 Paola. Eccoci qua, si sa ormai il palinsesto di Radio 24, noto dalle... Buongiorno. Eccoci qua, dalle 6.33 alle 6.32 del giorno successivo. Esatto. Paola, esatto. 24. Esatto, felice come un topino nella farina. Bene. Perché il topino nella farina? Ah, beh, l'ho sentito dire. Siamo felici come topini nella farina. Ma perché i topi mangiano la farina? O perché vengono impanati e poi fritti? No, Non credo che fosse questa la cosa. Milan, cosa dice Alito? Mannaggia. Buongiorno, mio caro. Buongiorno, sì, c'è da dire, c'è da discutere. C'è da dire. Insieme a te c'è il nostro direttore Super Dir. Buongiorno. Oggi per metterlo più di buon umore non l'abbiamo messo Luca. Che peraltro, ricordo, l'hai suggerita tu. Lo so. E quindi ti sei, come dire, letteralmente fregato. A me dispiace un po', preferisco quel Luca della Carrà. Lo so. Però, come dire... Vorrei chiedere scomodo. Però insomma, che succede? No, è partito qualcosa che non dalla regia, che non si capiva. Vabbè, direttore di Vanity Fair Luca Dini, allora eccoci qua a raccontare, ma sì, dai, partiamo anche noi da questa vicenda di cronaca, apriamo il Parlamento prima, perché assolutamente se non apriamo il Parlamento adesso vado a prendere un caffè, quindi se mai ci vediamo il caffè della Boschi, grazie. E poi ci vediamo più tardi, noi attendiamo ovviamente. Allora dai, fate una presa di posizione, state, perché qua bisogna vederla così. Sto con chi ha sparato, no, sto con di qui, sto con di là. Io devo dire che non lo so, spero di non trovarmi mai in una situazione del genere. Peraltro non ho una pistola, quindi non saprei neanche come cavarmela. Tu Luca, che dici? Io non sto con gli opinionisti dell'una e dell'altra parte che non hanno nemmeno un briciolo di rispetto per la tragedia di una persona che credo abbia avuto molta paura e credo sia anche molto dispiaciuto di quello che è successo. Si nessuno pare... sogna di ammazzare una persona. Ma no, è chiaro. E quindi bisognerebbe insomma stare un po' zitti e capire questo, cioè. Trovo veramente indecente l'una e l'altra posizione. Sì, devo dire che trovo anche indecente chi non capisce che la giustizia deve comunque aprire un'indagine, perché è dovuto, è obbligatorio, non è persecuzione, va fatto e basta. Questo va fatto, è chiaro che però hanno cambiato l'accusa nei suoi confronti, adesso pare sia diventato omicidio volontario. Qualcuno fa notare però, dimmi Alessandro, è prassi per poter accedere a tutte le, insomma, le indagini che dovranno essere fatte. È brutto sentirsi che una persona venga accusata di omicidio volontario rispetto all'eccesso di difesa, che anche lì, insomma, è tutto quanto da capire. Se una persona entra senza scarpe, con le mani coperte da calze per non lasciare impronte digitali, ha in mano solo una torcia, vedremo, capiremo. Beh, sicuramente tu nottetempo dormi e ti trovi un figuro. Certo, puoi anche non sapere, puoi anche non distinguere una torcia da chiaro. No, sono d'accordo con Luca a dire che quelli che lo trasformano in eroe si sono chiesti, è una domanda che faccio, si sono chiesti se questa persona vuole essere trasformata in un eroe. Cioè, io non credo perché che... Ricordiamo già il caso del benzinaio, no? Sì. Dice, come? Per favore non fate di me un caso, perché a me è dispiaciuto. No, ma è chiaro, nessuno vuole mai nella vita trovarsi in una situazione del genere e credo che nessuno sia contento di poter dire ho seccato una persona, cioè uno spera davvero di non trovarsi mai di fronte a questo, quindi insomma io capisco il riflesso di alcune parti politiche e anche della popolazione a dire bravo, hai fatto bene, finalmente, sì, però poi quando è finita la manifestazione... No, io questo... lo capisco. No, ma io voglio dire, non sfilerei mai... Da tastiera o da TV. Sì, non sfilerei mai, dico, però posso capire che alcune persone siano motivate da questo, però poi quando la manifestazione è finita, questa persona è da sola, cioè, ed è lui che ha ammazzato una persona, non è che... no. Sì, poi trovo ugualmente ridicolo quello che dice, anzi forse persino peggio, quello che dice doveva chiamare le forze dell'ordine, dai. Sì, vabbè, dai, chiamare le forze dell'ordine quello. No, voglio dire, non puoi giudicare così, dai. No, ma poi, no, ma sicuramente poi soprattutto... se chiami le forze dell'ordine, come dire, fa sempre bene. Ma c'è un... Tanto quest'uomo dormiva con la pistola sul comodino al posto del bicchiere d'acqua. Esatto, allora già questo esatto. È... Peraltro le ha chiamate le forze dell'ordine, prima però ha sparato e poi ha detto chiamate subito i carabinieri, voglio dire, ma com'è, che vuol dire spari in alto e chiami le forze dell'ordine? Cioè, se questo c'ha una pistola, quest'altro rapinatore, che succede? Chiami le forze dell'ordine. Sì, se quello sparava in aria... Metti che il rapinatore fosse armato e moriva lui. No? Dire, cioè, non c'era tempo per chiamare. Discorsi, per ora discorsi che lasciano il tempo che trovano. Un po' sì. Sì. Paola, che dici? Sì, okay. Lasciano il tempo che trovano. Cioè, per ora capire innanzitutto come sia andata, che cosa sia accaduto veramente. È accaduto che c'è un uomo che è morto, punto, sì. Ed è accaduto che quest'uomo non fosse entrato a casa o avesse bussato alla porta per chiedere aiuto o domandare... il famoso bicchiere d'acqua, cioè era entrato come ladro, e siccome la cronaca riferisce di persone che prima di essere derubate vengono ammazzate di botte, se non ammazzate di botte definitivamente e poi le derubano pure, vige purtroppo il principio della paura. Poi da questo alla trasformazione immediata in una storia di carattere politico, tutto ciò è da una parte nessuno di noi tre è ipocrita, per fortuna, è assolutamente naturale che accada, perché è naturale che la politica parli di sicurezza e si chiede da una parte piuttosto che dall'altra. Purtroppo lo fa in questo modo qui, insomma, sparati in testa, ha fatto bene, avrei sparato anch'io, gli avrei bucato la pancia, vabbè, insomma, però è naturale che accada, è chiaro, arriva la rossa, è naturale con degli imbecilli. Eccolo il nostro Lucadini. Eccolo il nostro. Chi sono gli imbecilli? Adesso mi fai i nomi. Quelli che abbiamo sentito, scusa. Ah, ok, onorevole Santanchè, onorevole Librandi. Va bene. Se non sono imbecilli, sono in cattiva fede. Eccoci. E probabilmente vi ho la seconda. Finalmente è arrivata la rossa che mi trasforma in rosa la giornata, ci scrive Chris. Caro. Perché? Caro. Perché sei tu la rossa? Ah, sì. No, oggi la rossa si quota in borsa, scherzate. Ah, va bene, invece Paola era bellissima. La donna suona la campanella a Wall Street. Ah, ecco, ringrazio invece Alessio che dalla provincia di Pisa mi fa sapere che Paola è una bellissima rossa, mentre te, Milan, sei brutto come una cambiale. Ma prendila così, è un gioco. Allora, io sono certo della risposta che mi darete, ma sono sicuro che sarà un sì, ma tu Lucadini, tu Paola Saluzzi, insomma, voi pagate regolarmente il canone della RAI? La risposta è sì, certo. Va bene, sì. Avete mai avuto la tentazione in passato di non farlo o non l'avete fatto in passato? Certo. No, mai, no. Però la tentazione sì. C'è anche tutti gli anni, immagino, ogni volta. No, tu Paola invece no. Ma no. No. No. No, proprio mai la tentazione, cioè paghi il canone dicendo proprio è una cosa giusta, bella e dovuta. No, paghi il canone, hai il televisore in casa, paghi il canone. Basta, punto. No. Eccolo qua. No, perché Salvini, questo è il mio punto di vista, Salvini è venuto qui a dirci 2 giorni fa che invece lui fa la raccolta differenziata, sentire un po' con il bollettino, Che io dovrei pagare il canone Rai perché ho l'iPad? Secondo la legge, quindi lo paga o no? Lo paga? Ma non ci penso neanche. Che fa col bollettino? È la raccolta differenziata, la plastica con la plastica, la carta con la carta, il vetro con il vetro. Se io fruisco di un servizio lo pago. Eccolo qui, la raccolta differenziata, vabbè, come un bravo cittadino, la carta la butto lì, il vetro là, eccetera. Sentite Crozza, ieri ha preso spunto da questo, Salvini ha dichiarato che non pagherà il canone TV in bolletta. Ma come? Proprio lei, Salvini, che negli studi televisivi ci vive. Giovanni, tu pensa che Salvini sta così tanto negli studi televisivi che la bolletta gliela passa direttamente al cameraman? effettivamente, per uno che sverna in TV e spesso anche in Rai, vabbè, non paga. Pensate esattamente la stessa cosa. Esatto, e che dobbiamo fare? Però lui dice mi invitano lo stesso e continua a non pagare, quindi fa bingo, bingo ha fatto praticamente. Beato lui che ce l'ha la differenziata. E qui apriamo tutta una E qui apriamo il capitolo Roma. Ma perché a Roma non c'era? Ma c'è la differenziata a Roma? A pezzi e bocconi. Ma ragazzi, ma siamo nel 2015. Oh! A pezzi e bocconi. Romani! Siamo nel 2015. Sveglia! Ma com'è possibile? Non lo so, non chiederlo a me. No, no, no, ma non che... Mettiamo subito veramente. Assessore alla nettezza urbana Paola Saluzzi e... Ma insomma, per carità, è lieta, ma probabilmente è difficile la raccolta in tutta la città, non ci sono ancora tutti... Non c'è dappertutto, insomma, questo è il senso. E non c'è a Milano, in questi casi si dice... Voi a Milano. No, noi cosa abbiamo. C'ho l'umido, la esatto. Plastica. In alcune aree c'è. E l'indifferenziato. Non so, tu, Luca, nella tua zona di Milano cosa c'è? Sì. L'umido in realtà ce l'abbiamo da poco. È vero, non da tantissimo. Molte zone dove è arrivato molto prima. Sì. Ma sembriamo tre signori nel sala d'attesa dal dottore. Però esatto, veramente vogliamo parlare anche della fiction televisiva che abbiamo visto ieri sera. Non lo so. No, delle mezze stagioni. Esatto. Che non esistono più, caro direttore. Sì, sì. C'ho un po' di dolore, mi sono svegliato questa mattina con un dolore alla sciatica. Orca miseria, che va bene. Sì. Dai, allora, a proposito, ne approfitto ora, se no non ne approfitto più. Approfittane. Oh. Allora, io voglio la micro rubrica di due secondi, tutti pazzi per Alino. Ah. Allora, aggiungo il nome... Anche un secondo, vuota. Anche un secondo. È vuota. Silvia Colombo, direttore affari istituzionali dell'Università Bocconi di Milano, non perde una puntata. Oh, saluto Silvia Colombo, grazie ragazzi. Solo gente che mi dice, Milan, quindi tutti pazzi per Milan. Perché eri allo stadio, è finita la mia Paola, rubrica. Eri allo stadio. Vabbè, dai, andiamo al traffico, perché tu hai introdotto la questione Marino, io lo dico subito, spero, ma non perché tifi Marino, ma spero di entrare nell'era della resistenza mariniana giorno numero uno, il Marino barricadero, ma mica peraltro, così per vedere l'effetto che fa. Mamma mia, non ce la faccio più, e datemi questo benedetto traffico. Stufe, caldaie, termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta... Non posso esimermi dall'esprimere la mia soddisfazione per l'assoluzione di Harry e Luca. Finalmente qualcosa di buono che arriva in questa atmosfera così pesante, fatta di bassezze e basta. Sono contenta, il fatto non sussiste, era ora. La mattina quando parla la rossa Paola, che bel risveglio. Ma proprio bello con quella voce sensuale calda. Ma perché non la mettiamo al posto della Boschi? Così incanta tutto il Parlamento. Evviva! Ciao Elsa! Oh mia radio 24, che te sono e te lontan, col giornale il cappuccino o con turbulanti in man. Da Cruciani al Barisoni, Nicoletti e Di Giannino, ti senti tutta la radio un bel sentì, ma il Milan è un gran Milan. Ciao Milan! Via bella Madonina! Vabbè, che devo dire io a questi ascoltatori? Non lo so. Grazie, insomma, grazie. Creativi. Ma sì, ci mettono la passione, la voglia, la... Rassegnati al successo. Rassegnati al successo, certo. Va bene, Mila, sei adorato. Mi rassegno. Va bene, io comunque non ci vado al posto della Boschi. Non ci vai al posto della Boschi, no. Ma no, per tutte e due. Ma no, ma infatti, ma io già, scusa se ti ho fatto solo assessore a Roma, qua ti volevano già ministro. effettivamente. Va bene, prossimamente. Effettivamente. Prossimamente. Allora, anno 1, o meglio giorno 1 della resistenza mariniana. Dai, ma non vi piace, Luca, non ti piace l'idea? Sì, vorrei non esserci arrivato, diciamo. Sì, quello sì, quello sì. Beh, è un po' così per fare un po' di casino. Io sono un po' giamburrasca in queste cose, no? È per no, vedere... assolutamente. Per vedere... Continuo a pensare che al di là delle responsabilità ci siano state delle, delle, insomma, delle leggerezze, ecco, questo sì. Sì. È un peccato, peccato veramente. Sarà anche un peccato, però è anche vero che, voglio dire, adesso ho detto una cosa e subito torno indietro, anche Marino, ma non ha più nessuno dalla sua parte, ha accusato anche il suo staff perché le firme non erano sue, dice, non, cioè, ha detto sfiduciatemi tutti, pare che se ne vogliano andare tutti i consiglieri se lui... resisterà alla fine, cioè Paolo... Io credo che la sua vera colpa sia un pochino legge, cioè la sua, la, sicuramente è colpevole di distacco dalla realtà, ecco, sì. Ecco il distacco dalla realtà, Paola, è un marziano il nostro sindaco? Qui c'è gente che è convinta, io parlo sempre da quella grande grande area di informazione, che è la strada, no? Il bar, tabaccaio, giornalaio, la strada. La gente è convinta che rimanga, La gente è convinta che rimanga? Dai, Marino, resisti. Ma dai, ma della serie, fammi vedere che succede, perché questa poi ma infatti, logica, ma è la logica anche un po'. Fammi vedere che succede. La logica un po' mia anche, per vedere l'effetto che fa, così per vedere. Amici, assolutamente, torniamo, venga anch'io, no tu no? Esatto. Ma... per vedere l'effetto che fa, solo che nel frattempo bisogna fare cose. Sì, cioè, sì, questo è vero. Non c'entro con tutta questa storia, quindi potrei sempre, insomma, ripensarci. Il concetto è questo. C'è effettivamente. Aspettiamo il 2 novembre. C'è effettivamente questa situazione per cui i romani gradirebbero anche che venisse governata la loro città. Questa cosa, sì, fastidiosa, magari. Questo piccolo particolare. Piccola cosa, ma proprio piccolina. Sì, però sì, magari, sì, sì. Tipo iniziate con la differenziata, per esempio. Romani, la differenziata, dai! No, ma l'altro giorno ho visto prendere multe a dei motorini parcheggiati su un grosso, grande marciapiede, in quanto impossibilitati a parcheggiare nella piazzola di sosta a loro dedicata, senti come parlo, in quanto invasa costantemente dalle macchine. Come un verbale dei vigili urbani. Le multe sono arrivate a chi? Alle motociclette. Vabbè, senti un po' Crozza qua, sempre su Marino, Marino oggi ha detto che ha cambiato idea, ha chiarito tutto, non è indagato e vuole restare. Si è presentato spontaneamente in procura. Spontaneamente perché non l'avevano invitato manco lì. non male. Cosa ci fa lei, Marino? Ma sono venuto in procura. Ma chi la vuole? Beh, insomma. Allora, io qua il numero di Vanity Fair, c'è una straordinaria Nicole Kidman. Ma quanti anni ha, caro Luca, Nicole Kidman ormai? 48, credo. Ah, vabbè, una giovincella. Una stra giovincella, capito Paola? Visto come è stato bravo. Una ragazzina, una stra giovincella. Sì, hai azzeccato, 48. D'altronde è la tua copertina e quindi dovresti saperlo. Ecco, c'è questo dibattito sui vaccini. Mamma mia, c'è ancora gente che non vaccina i bambini perché dice, giustamente anche tu, Luca, avete fatto una cosa. Ma ancora c'è gente che non vaccina con queste... con queste cose. Anche lì, ecco, chi strumentalizza politicamente questa cosa andrebbe vaccinato contro... Vabbè, non lo so. Non lo so. È un vaccino che non esiste. Ci vorrebbe un vaccino per lo stress, questo sì, certo. No, i vaccini, vi occupate anche voi, che è un tema molto popolare, molto, molto popolare, davvero, c'è ancora talmente tante ignoranze in Italia. C'è una cosa interessante, secondo me, da dire. Sì. Le case farmaceutiche avrebbero molto più interesse a curare i malati che non a vaccinare chi non lo è. Ah, certo, la proliferazione delle malattie, così poi vi piazzo i farmaci. Comunque alle 15 torna la nostra Rossa, che non è qui su, lascia per un attimo, per quelle due ore, Radio Paola, per tornare poi a Radio Paola subito dopo, ma dalle 15 alle 17 deve andare a Sky TG24 pomeriggio, la cediamo in prestito così. Vi devo salutare, vi ringrazio, alla prossima! Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta.

dal 4 perdevano 2-0, poi vincevano 4-2, 4-4 col Bayer Leverkusen, una cosa pazzesca. Ora rischiano di uscire, insomma, dalla Champions League. Davvero questa vittoria ci voleva per la Roma e invece non è arrivata. Ma siamo alla carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. Anche il pesto ci tolgono, perfino il pesto, ascoltatori. Arturo Zampaglione racconta su Repubblica che gli alberi sono a rischio e questo ci dispiace enormemente. E quindi l'invito è questo: fate il pesto senza pinoli. Anche il pesto ci tolgono, perfino il pesto. Ma chi se ne frega? Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo, fluentis.com. Vi presenta... Ladies and gentlemen, and now, Alessandro Milan and Oscar Giannino! Questi politici bisogna attaccarli alla radro e a guidare la radro, sai che ci mettiamo? Ci mettiamo Giannino ingazzato con una frusta a nove code. Alessandro Milan, sempre breve e circonciso. Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino, attenti a noi due. Siamo qui, caro Oscar, alle 8:19 minuti, ben ritrovato. Eccoci qua, buona giornata, buon inizio, anzi buona continuazione, vista la rassegna che hai già fatto con Alessandro. Un saluto a tutti gli ascoltatori e a chi si chiama Ursula oggi, Sant'Orsola. Ursula, oh, Sant'Orsola. Beh, Ursula, nome un po' particolare. Sì, perché sembra tenero, in realtà c'è una zampata sotto, poi ne arrivo. Ursula, Ursula. Allora, caro Oscar, tu hai castelli, hai ville, ma no, anche anche a me, no. Io ho detto no, al no. Plurale. No, al limite un castello, una villona, ma no, magari neanche. Però, cari proprietari di castelli o ville, o anche di un solo castello o villa, dovrete continuare a pagare la tassa sulla prima casa, chiamala casa, sulla sì, prima casona, sulla prima casotta. Però insomma è anche il segno di un casino, perché inizia la retromarcia di Renzi sulle cose della finanziaria, che ha assunto più per voti che per altro. Però nel giro di due giorni per voti, non è che si votava due giorni dopo la finanziaria. No, però quindi... siccome noi non abbiamo ancora il testo, se sottolineiamolo, signor Capo dello Stato, guardi che è una gravissima mancanza, quella di chiudere gli occhi di fronte al fatto di accettare che esistano leggi di stabilità come qualunque atto approvato da un Consiglio dei Ministri quando non ci sono i testi. Non è approvata. Che cosa è stato mandato a Bruxelles se non è approvata? Il capo dello Stato, questo come il precedente, da anni ha piegato il capo di fronte a una gravissima violazione dei requisiti fondamentali perché una legge sia compiuta. E questo ci dà l'idea di che cos'è, anche perché come vedi cambia tutto, mica solo quello. Boeri dice, ma come sulle pensioni? Beh, sulle pensioni era stata fatta una discussione politica, alla fine è stato detto fin da subito che non, la flessibilità non è entrata. Però diciamo, Chiamparino, il presidente del Piemonte, dice, guardate, io ho 5 miliardi, vado sotto, cioè io vado in fallimento col bilancio. E qui c'è un'altra questione, perché c'era un saldaregioni che il Quirinale ha bloccato, ne hanno parlato solo in due giornalisti in Italia, io e Alessandro Barbera La Stampa. Dopodiché lui dice, non mi salvate, ma voi ci avevate promesso che c'era legge di stabilità. E tra l'altro, infatti, in una bozza di stabilità il primo giorno c'era davvero, e invece è sparita. Ma poi c'è anche il giallo dei giochi. Ieri ne abbiamo parlato, giochi, delle 22.000 sale slot che sono state proposte, poi sono uscite. Oggi ancora a venire, dice, non si capisce bene quale sia la linea, perché non esiste un testo ufficiale o non è ancora. Però nelle bozze c'era. Nelle bozze è poco sicuro. Ci scrive subito un ascoltatore: ho un castello e sono felice di pagare. Va bene, evidentemente. Quanto costerà poi, tra l'altro? Abbiamo Berlusconi. Berlusconi ci ascolta. No, è lui a scrivere, dico. Ah, no, ma lui non ha un castello. No, si firma Ale Benso. Benso, ma non so se il nome è Ale Benso, non so, cos'è, un nobile, come il nostro Cavour. Un discendente di Cavour. Non lo so se è un discendente, non lo so. Comunque, dobbiamo dire agli ascoltatori che noi avremo ospite Roberto Maroni, governatore della Lombardia. Parleremo di varie cose, leggi di stabilità. anche di questa vicenda di cronaca. L'hai seguita, Vapro Dadda? È quella di Vapro Dadda, certo. Questa è abbastanza... Signor Sicignano. Sì, io non capisco come mai le persone riescano così a schierarsi, a sapere già tutto com'è andato e dire io sto con lui, io non sto con lui, ha fatto bene, ha fatto male. I politici poi vanno nei talk e sì, dicono sparagli addosso, non sparargli. O non sparargli. Tu ti sei fatto un'idea compiuta di quello che è successo. No, io mi limito a dire che leggendo i giornali, vabbè, il fatto più o meno è noto, però vedo che se leggo il Corriere della Sera mi dipinge Sicignano come un ex imprenditore immobiliare molto discusso e più volte fallito, ma non mi dice nient'altro. Mi dice che avrebbe un grave precedente penale, ma non mi dice qual è. Se leggo il Messaggero invece è un ex venditore di strumenti musicali. Sì. Ecco, io quindi direi che forse è meglio essere un pochino un po' più cauti, un po' cauti. Il fatto è che è entrata una persona nella villetta di questo pensionato gli ha sparato e ha ucciso. Questa persona era un rapinatore. Che sulla stampa il vice ministro della giustizia Costa dice cambieremo le norme perché in effetti la legge non è abbastanza, come devo dire, comprensiva verso la difesa dei diritti, di libertà, di proprietà, eccetera, eccetera, di chi si vede arrivare sistematicamente. È chiaro che se succede in America che tu metti un dito mignolo all'interno della proprietà privata in alcuni stati io ti sparo. Però appunto. L'America è diversa, l'America perché il secondo diversa. Emendamento della Costituzione nasce addirittura, il secondo emendamento, quindi stiamo parlando proprio alla fine del Settecento, nasce per il diritto delle armi, pensa che lì nasce per poter sparare contro i federali, perché era una forma di autodifesa contro il governo centrale. Questa cosa, cioè sparare contro il rappresentante dello Stato. Sì. E infatti tanti come mai ti sei galvanizzato di quella Costituzione, se come mai ti sei galvanizzato, Oscar? Cosa ci vuoi comunicare? Fino al 2000, che è la più grande costituzione della storia, cioè quella americana, solo pensa, sai quanti comunicare. Articoli ha? 7 articoli, è vero, in tutto, nasce col diritto di sparare contro i federali, che mi pare non può. Però noi non siamo l'America. Noi non siamo l'America e non incitiamo assolutamente. No, parleremo di questa cosa di Vapro Dadda. Se volete 800 24 0024 potete parlare, chiamare per gli argomenti più disparati, anche del canone della Rai che torna. Oggi il Messaggero racconta che un'altra il canone, cosa in via di cambiamento, il canone della Rai diventerà reato mentire sul possesso TV. Ascoltate, Salvini, ascoltaci, diventerà reato. No, ma lui non ha la TV, quindi ha detto di non averla. Detto questo, è singolare la storia. Io sono sicuro e darò una mano personalmente a chi farà le impugnative, perché che un canone, cioè una tariffa, diventi nel tempo una tassa sul possesso di apparati di ricezione che oggi si rinnega e si riannega in una tariffa, quella elettrica. Sì. Io credo che si presti. Hai già detto in Costituzione. Ma che vuol dire darai una mano? Cioè vai a impugnare tu? No, dico che bisognerà poi garantire una parità di informazione e quindi che chi farà le impugnative dovrà essere anche ascoltato e proposto, perché non è che può passare il messaggio legalitario, anche perché, come sai, ci informa il Messaggero che malgrado vogliano a tutti i costi la tassa tariffa tassa, e che diventa reato se tu poi dici che non hai, continuerà la Rai a non dirci compensi delle loro star. Perché non ce lo dice? Perché dice, ma con io sono in concorrenza con reti commerciali, allora siamo in rete commerciale, ma allora leva gli spot, o zero spot o zero canone, insomma. Ecco, io dico che il canone della Rai va pagato, lo so, sono un po' retro, ma porto avanti. Difendi la Rai dei partiti. Ma no, non difendi la Rai dei partiti. Ma che difendo la Rai dei partiti? Difendi la Rai che non ci vuole dire quanto paga difendo i suoi dirigenti. Il fatto che se c'è una tassa che io odio pagare tutte le volte che vado al bollettino e la pago malvolentieri, questo lo voglio chiarire, ma difendo il fatto che non capisco perché ci sono milioni di italiani che la pagano e fanno uno sforzo per questo, anche economico, e milioni invece, o centinaia di migliaia, che possono dire tranquillamente io non la pago e sono come te. No, perché la storia della libertà evolve contestando duramente le imposizioni dello Stato. Va bene, però voglio dire, uno si assume la responsabilità e lo Stato decide di metterlo reato, come voglio dire. È appunto una battaglia. Pensando di avere ragione, ma su quello mi tolgo il cappello. Se uno porta avanti la battaglia fino in fondo. A proposito di leggi uguali per tutti e così via, visto che la legge Severino non è incostituzionale, che ne diresti se si dovesse applicare a questo punto automaticamente senza aspettare giudici ordinari? E cioè voglio dire, se viene, ovviamente, come tutti dicono, si scatta la prescrizione per De Magistris, a De Magistris non si applica. Ma signor De Rocca, perché non si applica automaticamente e decade per ma il tempo previsto? È già decaduto, previsto? No, però poi dopo è sospesa stato... la TAR, però, certo, la faccenda. Certo, è sospesa da TAR. Perché altrimenti, ma infatti, la come al De Rocca è una legge amici per gli amici. Sì, tra l'altro De Magistris, forse oggi c'è il giudizio d'appello. Dovrebbe essere previsto. Potrebbe essere condannato, potrebbe essere assolto. De Magistris scatta la prescrizione, quindi... Però Oscar, io vorrei... Le prescrizioni che gli ex magistrati, quando erano magistrati, dicevano servire solo ai delinquenti, quando diventano politici si applicano anche a loro, guarda. Ecco, guarda. Qui. Salutiamo il sindaco di Napoli De Magistris, quando vuole ne siamo qua. Però Oscar, ti voglio sottoporre, perché oggi sono arrivato qui, ho letto i giornali e questa notizia che è stata smentita dal Vaticano, ma confermata dal direttore del Quotidiano Nazionale, a dire vi assicuriamo, abbiamo fatto le dovute verifiche, è vero. E riguarda la salute di una persona che è molto amata comunque in tutto il mondo, il Papa. Allora oggi il giorno, io l'edizione del giorno abbiamo, esce così: Papa Francesco è malato, scoperta mesi fa una macchia scura al cervello, sarebbe un piccolo tumore curabile peraltro senza interventi chirurgici. Interventi chirurgici. Il tema è, e il direttore del giorno fa un editoriale, a dire il dovere di scriverlo, su questo si dibatte, cioè se in possesso di questa notizia si viola la privacy di una persona, ma è il Papa, è una persona pubblica, e quindi che fare? Intanto il Vaticano ha smentito, però la notizia farà il giro del mondo oggi. Notizie quando ci sono bisogna darle, bisogna darle, quindi non c'è alcun dubbio. Tra l'altro, no, maggior ragione poi quanto più elevato è il rango e il rilievo pubblico delle persone di cui si parla, del resto anche le leggi, tanto per rimanere a quello del nostro mestiere giornalista, così dicono, cioè più rilievo ha il personaggio pubblico, più si attenua il suo diritto alla privacy, e così funziona. È chiaro che questo, che all'interno della Chiesa, sai che già c'è un grosso dibattito, mettiamo così, questa notizia forse è per quello che il Vaticano tende a smentirla in maniera categorica. Che in questo momento non però fa bene alla dialettica. Il presidente della Repubblica americani o francesi direttamente eletti dal popolo. Il popolo ha diritto a sapere come sta il presidente della Repubblica. E così anche il Papa. A maggior ragione. Detto che ovviamente lì c'è parola contro parola, cioè il direttore del giorno dice la notizia è verificata al 100% e il Vaticano. Però se è verificata, apprenderemo presto i particolari e quindi a quel punto ci sarà poco. Aspetta, comunque vediamo, certo, se poi si rivelasse infondata è un grave infortunio giornalistico. Questo sì. Vogliamo sentire Cesare da Monza, ci chiama? Cesare, buongiorno. Sì, buongiorno Cesare. Che ci vuol dire lei? Allora, lo voglio dire che io sono incazzato nero di essere in uno stato PM come l'Italia, va di bene, non un governo, uno Stato. Sì. Io mi sono fatto una villetta con 20 anni di sacrifici, non facevo né ferie né niente, né ristorante né pizzeria. Adesso mi trovo di pagare un mare di tasse. Mi sono entrati 4 volte a rubare a casa mia. Mi sembra di essere quelle carovane di texani circondati dagli indiani. Solo che i texani, quelli che avevano i cowboy, avevano il fucile. Io non ho niente, ho virtualmente una bandiera bianca. E quando vedono, loro lo sanno, i rumeni di merda e tutta quella gente di merda. Ma cosa vuol dire rumeni di merda? Mi scusi, Però guardi caso, la maggior parte sono rumeni, albanesi e chi ne ha cioè quelli che entrano nelle ville, dice. Però scusi, allora, rumeni di merda non l'accetto. Signor Milan, bene, non l'accetti, pensi. Ma perché ci sono milioni di rumeni che sono persone per bene, adesso non è che dobbiamo fare. No, certo, ma non lo metto mica in dubbio. Ma io dico quelli perché li prendono e li lasciano andare ancora. Allora, ecco perché. Se lei ci sta dicendo che la maggior parte di queste persone che vengono fermate sono rumeni, albanesi, questo è un dato di fatto, guarda Oscar, lo dice la polizia, non è che i dati, le statistiche, questo sì, però dire rumeni di merda, ecco, questo no, caro ascoltatore, però la ringrazio, questo sfogo Oscar, questo sfogo dall'idea di che cosa provoca ogni vicenda di questo tipo, perché adesso è stato bene a chiarire subito l'ascoltatore, ovviamente, che anche uno può generalizzare contro interi popoli, però che molti italiani ci sia questo germe di assoluta insicurezza e pensino ogni volta che c'è una reazione da parte di chi viene visitato a casa, per così dire, cosa devo fare se capita a me? Perché se reagisco mi fico nei guai. E e divento pure strumentalizzato col chiaro, fuoco, chiaro, ah, l'eroe tirato da una parte all'altra. Cosa devo fare? Gli do le chiavi e dico accomodatevi e fate. No, secondo me la cosa, se hai una moglie, dei figli, cioè, avrai paura di violenze, cose, cioè, ma certo. Io mi metto nei panni della gente comune. Credo che il problema della insufficiente chiarezza delle norme a tutela delle reazioni della gente, questo sia fondato, non sia un istinto di sparare come nel Far West. No, ma perché non siamo nel Far West, ma io sono assolutamente anch'io dalla parte di dire, ma ti trovi di fronte a una situazione del genere e hai una pistola, cioè se sei un proprietario di casa, ma cosa devi fare? Ho sentito appunto in uno dei talk, spari in alto e chiami le forze dell'ordine. Cioè, venite, spari venite in alto e chiami le forze dell'ordine, ma che vuol dire in quelle situazioni? Peraltro questa persona dopo aver sparato ha chiamato le forze dell'ordine, sì, dicendo venite, ho detto ho sparato a figlio, esattamente, non è che è fuggito. Esatto. Pietro da Firenze ci ha chiamato. Pietro, buongiorno. Buongiorno. È lontanissimo però. Sente? Insomma, no, deve togliere viva voce quello che ha. Sì, ora l'ho tolto. Ecco, grazie. Io chiamo da Firenze per il problema delle casse A1, sì, cioè sì, quelle che sono le casse di lusso. Sì. A Firenze ci sono 3.000 casse censite A1, il cui censimento risale agli anni 60, quando non c'era né ISCI né IMU, con la 1 si vendeva meglio e al massimo potevano avere il riscaldamento centralizzato. Tutte le persone che hanno fatto ricorso sono state bocciate dalla commissione tributaria. Io ho una casa di 140 metri quadri a un terzo piano, con un bagno normale e un bagno di servizio, sì. Sono pensionato con moglie e figli a carico e pago circa 2.000 euro l'anno per un appartamento. Ma è classificata a 1? È classificata quindi rimarrà, le rimarrà, lo sa la tassa? Lo so che rimane, per questo ho telefonato anche i giorni scorsi, perché è un problema di catasto. Perché i censimenti di una volta non riescono su. Comunque, è chiaro, è un problema Pietro che lei ci pone. Ha ragione, Pietro. Perché andando a vedere non troppe decine di migliaia di A1 che ci sono in Italia, la concentrazione è praticamente più elevata e in 3 centri urbani non proporzionale agli abitanti. E Firenze è esattamente uno di questi 3, per questa ragione storica che ci spiegava Pietro. Quindi solidarietà ai cittadini di Firenze, perché gli capita per questa ragione. Capita qua per questo. Pietro, la ringraziamo. La famosa per riforma questo del catasto, che tutto doveva cambiare. Sì. È un po' come le promesse di Gutged, questa bella intervista di Gutged oggi. Dai l'Oscar, allora, della dai, sera. Aspetta, dai, l'Oscar. And the Oscar goes to. Ma lo dai a Gutged, no, o a chi lo ha intervistato? Non la do perché puoi darlo anche come critica. È una fuga in avanti, cioè gli esponenti del governo fanno un po' come Renzi quando è venuto da noi. Ma dice la spesa non la tagliate? No, tra 5 anni. Quindi comunque quella la volevo segnalare. No, io l'Oscar lo do a Francesco Manacorda della Stampa, perché l'editoriale che oggi la Stampa in prima pagina mette su questa vicenda della Banca d'Italia, sì, è un bel editoriale secondo me, perché dice guardate, adesso però non è che possiamo fare le indagini perché Banca d'Italia sia stata fin troppo penetrante nel vedere quello che non andava nelle banche italiane, perché quello che faceva, che avveniva, era l'esatto contrario. Viva la Stampa che prende questa linea secondo me, e via Francesco Manacorda. Io invece do l'Oscar a Piero Santoro, detto Pierino, un nome che in molti dirà pochissimo, ma la Stampa racconta che questo signore si sarebbe intascato 8 milioni e mezzo dal bilancio dell'Istituto Case Popolari di Asti, per cui lavorava, e ora ha ottenuto la pensione sociale perché è afflitto da una grave forma di ansia e depressione. Mamma mia. Ecco, queste sono le cose che veramente, secondo me, mamma mia, mettiti nei panni di chi legge, fatica a pagare il canone Rai e dice io pago per lo stato di queste robe qua. Esatto, 8 milioni e mezzo tolti all'Istituto Case Popolari e ora pensione sociale. Ah, non ha fatto un giorno di carcere perché ha patteggiato 4 anni e 2 naturalmente mesi. Tra 4 minuti avremo Roberto Maroni, governatore della regione Lombardia. State con noi. State ascoltando un programma offerto da ADP, leader mondiale nella gestione del personale. Allora, sono le 8:40 minuti, caro Oscar Giannino. Eccoci qui. E c'è con noi, e lo vogliamo salutare subito, Roberto Maroni, presidente della Regione Lombardia. Maroni, buongiorno e bentrovato. Buongiorno a tutti, presidente. Buongiorno. Vogliamo partire da Vaprio d'Adda, che è il caso di cronaca che è capitato nella Regione Lombardia. Perché le ha detto daremo sostegno legale alla persona che ha sparato? Perché abbiamo approvato a giugno di quest'anno una legge, la Regione Lombardia, per la legalità contro la criminalità organizzata, che prevede anche il sostegno della regione per coloro che, difendendosi da un reato contro il patrimonio, contro le persone, viene alla fine accusato di un reato per eccesso colposo di legittima difesa. Qui addirittura omicidio volontario per ora il rischio. Ecco, infatti questo cambia ovviamente, perché noi difendiamo chi è accusato di omicidio volontario, ma di eccesso colposo in legittima difesa per difendere sé o i propri cari da qualcuno che cerca di aggredirli. Ah, cioè mi faccia capire, se fosse omicidio volontario voi non lo potete... La legge regionale parla appunto di eccesso colposo in legittima difesa. Io penso che questa imputazione di omicidio volontario sia incredibilmente sbagliata e penso che sia dovuta alla necessità di compiere certe indagini, ma poi se ci sarà il processo, spero di no, nei confronti di questa persona, al massimo sarà omicidio colposo, eccesso colposo di legittima difesa. E in quel, allora, caso, noi in quel caso affronteremo la difesa legale, certo sostenendo le spese. Anche se, Presidente Maroni, è un po' singolare questa storia per la quale noi scriviamo come giornalisti, tutti poi devono ripetere, adottiamo dei capi di imputazione in fase di indagine preliminare per consentire di chiamare il RIS, per così dire. Poi resta il capo di imputazione, questo è il punto. Cioè, a me colpisce, chiedo la sua opinione come Presidente della Regione Lombardia, se il Vice Ministro Costa oggi sulla stampa dice atti anche di convegni di giudici alla mano, in Italia esiste un problema vero, cioè la legge non è chiara su chi è costretto, leggo, a difendere l'inviolabilità del domicilio contro una intromissione ingiusta, clandestina o violenta, tale da destare ragionevole timore per l'incolumità o la libertà. Da una parte abbiamo il Vice Ministro della Giustizia che dice, accidenti, c'è un grande problema di legge, e dall'altra appioppiamo l'omicidio volontario. Lei che dice? Io credo che sia un'aberrazione l'omicidio volontario, veramente è una cosa che... Io sto dalla parte di Abele, non dalla parte di Caino, e c'è qualcuno invece che protegge chi fa violenza, protegge i criminali più che non le vittime, e questo è il problema, però non è un problema di leggi. Le leggi, il codice penale qui è chiaro, è un problema di interpretazione, e chi fa l'interpretazione ovviamente è il magistrato che parte con le indagini. Per fortuna ci sono degli strumenti di difesa che consentono poi a chi è vittima di un reato di non passare per colpevole, però purtroppo siamo abituati a questi fatti, no? Per cui tu hai sempre torto, se ti difendi hai torto, se entri e commetti un reato, certo, però poveretto, perché, in che condizioni eri, avevi bisogno, da quale paese vieni, è un problema di interpretazione e la legge non può modificare, perché purtroppo è così. Bisogna non avere titubanze e approntare una difesa agguerrita. E per questo che noi siamo intervenuti come regione, perché è anche una questione culturale. Tanti piccoli casi, tanti casi isolati rimangono casi isolati. Se creiamo invece le condizioni perché questi casi isolati pongano il problema, come lo sta ponendo questo caso, magari allora si può intervenire in qualche modo. Senta Maroni, ieri è stata respinta la mozione di sfiducia nei suoi confronti, e quindi rimane Presidente della Regione Lombardia. Lo ha mai dubitato di poter rimanere dopo la vicenda dell'arresto del vice Mantovani? No, assolutamente no. Non entro nel merito della vicenda, ma ho spiegato ieri che gli addebiti fatti per quanto riguardano la Regione Lombardia a nostro avviso sono infondati. Abbiamo fatto tutte le verifiche e questi tre atti che sono considerati delittuosi sono stati compiuti rispettando le regole, rispettando le procedure, rispettando le leggi. Se poi c'è altre cose che però non riguardano la Regione Lombardia non lo so dire, ma ho detto chiaramente ed esplicitamente che non esistono tangenti nella sanità in Lombardia. Detto questo e spiegato questo alla mia maggioranza, ai consiglieri regionali di maggioranza qualche giorno fa, loro spontaneamente mi hanno sottoscritto un documento che è una vera e propria mozione di fiducia, quindi non ho mai avuto dubbi su questo, perché non ci sono le condizioni non solo per andare avanti, ma anzi abbiamo colto questa occasione per rilanciare l'azione politica della regione e anche della coalizione, candidando questa coalizione alle prossime elezioni amministrative, in primo luogo quella di Milano. Senta, Presidente, mi metto nei panni del milanese che la sta ascoltando. Lei dice, per quello che abbiamo verificato, ho detto ieri in Consiglio di Regione, non ci sono tangenti, non ci sono violazioni di legge che afferiscano insomma cose di Regione Lombardia. Mi metto nei panni di chi oggi apre il Corriere della Sera, e trova non ancora nel fascicolo per cui si indaga per Mantovani, ma ecco un'altra gara truccata della sanità lombarda, quella per i centri diurni disabili, eccetera eccetera. Si metta nei panni di chi ci ascolta e ha il Corriere della Sera aperto, che cosa deve pensare a quel punto? Deve pensare che io non conosco i documenti che sono coperti dal segreto. Io dico quello che ho visto. C'era un'altra gara accusata appunto di loro due erano accusati, Mantovani era accusato di violazione delle norme e di alterazione quindi della gara. Abbiamo verificato, pensi un po', che questa gara che la procura dice era stata alterata è stata annullata, ma chi ha vinto la gara, secondo loro per l'intervento appunto di Mantovani, chi ha vinto la gara ha fatto ricorso al TAR e il TAR ha dato ragione a noi, ha dato ragione all'ASL che ha annullato la gara. Quindi questi tre episodi che io ho potuto verificare sono tutti regolari. Se tanto mi dà tanto, credo che troveremo la stessa situazione di regolarità in tutte le altre contestazioni. Quindi lei dice un'inchiesta che si sgonfierà? Noi abbiamo un sistema di controllo, più livelli di controllo, e le posso garantire che sono controlli così rigorosi che se c'è un'irregolarità viene immediatamente segnalata. Mantovani, nell'atto di accusa si parla anche di tante altre cose che ha fatto prima di diventare assessore alla sanità. Su quello io ovviamente non posso verificare, quando era sindaco, quando era sottosegretario, ma per quanto riguarda la sanità io posso garantire che il sistema di controllo è tale che non ci sono tangenti pagate nella sanità lombarda o dalla sanità lombarda. A proposito di sanità, una domanda sui vaccini, Presidente Maroni, perché lei sarebbe d'accordo di ripristinare quella legge che impone i vaccini obbligatori per andare a scuola, è stata tolta nel 99? No, io non sono d'accordo, io sono per la libertà e per la responsabilizzazione dei genitori e delle famiglie. Uno può essere vaccinato, può non essere vaccinato, la responsabilità rimane ai genitori. Rendere tutto obbligatorio mi sembra di tornare ai tempi dell'Unione Sovietica. Aumentano le malattie però, l'ha sentito anche lei. Questo è ancora da dimostrare e in ogni caso è chiaro che un genitore fa l'interesse del figlio, mica dice non lo vaccino perché voglio che si ammali. Ci sono dei motivi evidentemente, ma io sono per la libertà e la responsabilizzazione delle famiglie e dei genitori. Per la libertà. Perché quella norma fu levata dalla sinistra nel 99, sì. Ricordiamo a chi è in ascolto. Prima era chi non si sottoponeva alle vaccinazioni obbligatorie, a un certo punto perdeva, cioè il figlio non entra se non le fa. Chiaro, chiaro. Mentre invece basta una comunicazione, per quello obbligatorio c'è una segnalazione. Adesso il problema è che siccome si è abbassato il livello di copertura, insomma siamo scesi sotto il 95% per alcune patologie, ci si pone di nuovo il problema. E per questo mi interessava approfondire un secondo con Maroni. Cioè, anche se per alcune patologie ci fosse l'evidenza che bisogna tornare ad avere maggiore copertura, lei dice affidiamoci alla piena libertà dei genitori, o a quel punto è responsabilità della sanità pubblica dire no, guardate, se ci sono dei rischi veri noi dobbiamo dire i vostri figli li dovete coprire. Diciamo che se ci sono dei rischi veri certificati, ecco, allora si può intervenire, ecco. No? Ma non si può fare una cosa unica per tutti o per tutto. Se c'è la certificazione, allora certo è ammissibile, però questo deve essere valutato caso per caso. Io farei una commissione di super esperti che a livello regionale o anche a livello nazionale fa queste valutazioni. Che valuta il rischio. Valuta questo mi sembra, ecco, già una cosa, non è una questione. Ma una via intermedia, diciamo. Che abbiamo individuato una proposta da fare al ministro Lorenzin. Esattamente, ragioniamo. Senta, ma anche se la cosa non riguarda la Lombardia, però riguarda Piemonte, Lazio, Campania, eccetera, eccetera, ma come presidente di regione, quello che dice Chiamparino oggi sui giornali, cioè che il governo aveva promesso a loro il salva regioni su chi ha utilizzato i soldi per pagare i debiti per coprire altra spesa corrente. Gliel'aveva promesso, poi il Quirinale l'ha sospeso, poi gli aveva promesso di mettere in legge di stabilità. Come presidente di regione, lei ne sa niente? È vero quello che dice Chiamparino o è il governo che fa promette ai presidenti di regione e poi sparisce? È vero, è una storia un po' strana che lei, Oscar Giannino, conosce molto bene, immagino, perché riguarda i conti pubblici. Noi abbiamo una grande fortuna, anzi non è una fortuna, è un'abilità, Regione Lombardia. Noi abbiamo deficit zero. Pensi che tutte le regioni italiane messe insieme hanno un deficit di 19 miliardi. La Lombardia è l'unica regione che ha deficit zero, perché siamo bravi a gestire i nostri conti. Come si arriva a questo deficit? Anche attraverso questa misura che Chiamparino giustamente contesta, e cioè le regioni hanno usato delle risorse che erano trasferite per investimenti, le hanno usate per spesa corrente, sì, cioè per pagare i debiti, e adesso qualcuno dice non potevi usarli, e quindi il debito aumenta. Il governo era intervenuto promettendo di saldare questi conti perché sembrava che fosse un errore del MEF, non un errore delle regioni, e adesso si è rimangiato la promessa lasciando queste regioni in braghe di tela. Ma comunque non si capisce come, ma il mio Piemonte resta a rischio di esplodere con 5 miliardi, un disastro assoluto. Sì, deve trasferirsi in Lombardia. Ma io la residenza ce l'ho qua. Chiediamo anche a lei se paga il canone della RAI, perché qui Salvini ci ha detto di no, molti leghisti non lo fanno, lei lo paga privatamente? Penso di sì, sono cose di cui si occupa mia moglie. Io, per fortuna che i conti della famiglia li tiene mia moglie. Ma noi non possiamo mica invitare sua moglie per chiedergli conto. Perché no? Provateci. Ma posso chiedere cosa pensa di questa roba di mettere l'ex canone tariffa diventato tassa di apparecchi di ricezione e adesso lo riannegano nella tariffa elettrica? Lei è favorevole? È una follia. Il canone va abolito, punto. La RAI fa servizio pubblico. Sì, servizio pubblico lo fate voi, servizio pubblico, lo fanno tante piccole TV, tante piccole radio, lo fanno allo stesso modo della RAI. Noi siamo per l'abolizione del canone, punto. Se c'è una TV per cui si paga il canone, dovrebbe avere pubblicità zero. E invece qui c'è un sistema che paga il canone e in più ti becchi anche la pubblicità. Non va bene. Sull'Expo abbiamo un minuto. È d'accordo? Cioè, porta avanti il progetto di, credo, fare una cittadella per dopo Expo? Cioè, trova appoggio da parte del governo, del sindaco di Milano? Oppure... E soprattutto date al governo il potere di scegliere più lui che voi. Che succede, questo è il punto. Insomma, dopo l'Expo? No, questo, ho letto le cose di Renzi, cioè va bene tutto, però che uno venga in casa tua e decida quello che devi fare tu non va bene. Ricordo che l'area Expo è di proprietà di una società, Arexpo, sì, i cui soci sono la regione, il comune ed altri, non il governo. Ora, il governo non è che può venire a dirci a casa vostra, sul vostro terreno decido io. Ma siete pronti? Certo, abbiamo chiesto al governo di entrare nella società, ok? Di condividere gli oneri e gli onori, non solo gli onori. Se lo farà, anche gli oneri, venga. Certo. Altrimenti, ragazzi, certo. Io ho la responsabilità anche contabile di gestire il terreno di cui sono proprietario, non il governo. È chiarissimo e la ringraziamo. Roberto Maroni, presidente della Regione Lombardia. Con Alessandro Longoni, Elisabetta Fusconi, Lorenzo Nespoli e Peter Bescapè. Scopriremo che solo io te lo paghiamo sto canone. Ma tu lo paghi? Perché guarda che io non... Ancora non l'ho capito. Adesso inizia a chiedere a te cosa paghi. Ma sì, vediamo, sì, pago. Non ho ancora capito. Pago. Milan è un esattore delle tasse. Ecco, questo l'abbiamo appurato ufficialmente. A domani, cari ascoltatori.